Voi senz'altro ricorderete dal Vangelo che in più di una volta Gesù viene chiamato il Maestro, perché era uno che insegnava la vita, l'esistenza, e lo faceva con parabole, ma insegnava anche con i miracoli, con le sue parole. Perfino con i silenzi, alcune risposte non date erano un insegnamento. Oggi incontriamo la famosa parabola di Gesù, perché è lui questo padrone che va fuori a chiamare gli operai, di Gesù che chiama in diversi orari operai a lavorare nella sua vigna. È una parabola ricchissima. Basterebbe solo l'ultima frase: i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi, per farci su un ragionamento, ma confrontato con la nostra vita, perché a me piace leggere il Vangelo e intrecciarlo con la nostra esistenza quotidiana. Se no facciamo solo letteratura o archeologia. Dunque, vediamo quali insegnamenti emergono da questa parabola, sono diversi. Anzitutto, lui va a cercare operai per la sua vigna. Questo ci insegna una cosa importantissima, amici, che noi dobbiamo lavorare per il regno di Dio. Dobbiamo lavorare per il regno di Dio, amici. Questo non è tanto comune pensarlo, perché noi ci aspettiamo tutto da Dio. Per la verità c'è quel bel proverbio popolare: aiutati che Dio ti aiuta, ed è saggio. Mentre di solito noi chiediamo tutto a Dio, eppure ci lamentiamo, pure ci arrabbiamo se ci sembra che quello che gli abbiamo chiesto non ce lo dia. Ma lui ti dice: dati da fare. Sapete come si chiama questo lavorare per il regno di Dio, questo darsi da fare per lui? Si chiama con un altro nome anche molto bello: vocazione. Dio ti chiama. Vai a lavorare nel mio regno. Questo è il primo insegnamento, amici. Vedere se ciascuno di noi è convinto che deve lavorare per il regno di Dio. Poi c'è un secondo insegnamento che deriva dal fatto che lui va a chiamare a scaglioni diverse questi operai. Che cosa ci insegna? Per me è un insegnamento chiarissimo, che la vocazione, che l'invito ad andare a lavorare per lui, scatta a diverse età della vita. Io rassomiglio quelli che lavorano fin dalla prima ora, magari a tanti di voi, che sono cresciuti in una famiglia dove da sempre la fede è stata un dono, dove da sempre si andava in parrocchia a aiutare in oratorio, a dare una mano, ma anche nella società, perché questi operai sono per il regno di Dio, che non è solo la Chiesa, è anche il mondo. E c'è gente che da sempre dà una mano anche nella società civile. Se tu vuoi qualcosa, rivolgiti a loro, te lo fanno. Poi ci sono altre categorie di persone che magari cominciano a darsi da fare quando si sposano. Ho visto gente che ha incontrato, soprattutto delle donne in gamba, perché è la donna che regge la casa, c'è niente da fare. Hanno trovato delle donne in gamba, si sono svegliati, si sono sviluppati, per non dire che poi Dio gli ha dato dei figli e lì sì che hanno dovuto tirarsi sulle maniche e lavorare per il regno di Dio a metà della loro vita. Ci sono altre persone che scoprono di dover lavorare per Dio più avanti in età. Ho visto gente andare a Lourdes, andare a Medjugorje, tornare a casa cambiati. Qualcuno addirittura usare una parola forte: mi sono convertito. Sono sempre stato cristiano, ma andando lì sono tornato a casa cambiato. Io forse ve l'ho già accennato, ma forse non tutti l'hanno sentito, il caso di un uomo che ho conosciuto, un uomo lavoratore, onesto, un papà, un cittadino, lontano dalla fede, va a Medjugorje per accompagnare la sua mamma, che insisteva. Sua mamma vuol salire alla collina delle apparizioni, che è una strada tutta sassosa, dice: mi porti su? E vabbè, l'accompagna. Però lui poi si stacca dal gruppo, si mette da parte da solo, e lì da solo gli viene una voglia di piangere, ma un pianto dolce. Dice: ho pianto per un'ora, don Ambrogio, mi sono svuotato e sono tornato giù nuovo. Sono tornato a metalmeccanico, sono tornato in officina, mi sono messo a parlare ai miei compagni di lavoro di questa mia esperienza. Te lo vedi te, un metalmeccanico in officina, dare una testimonianza sulla Madonna? E lui è stato raggiunto dalla chiamata più avanti nella vita. Infine c'è gente che viene chiamata anche verso la fine, da anziani, io ne ho presenti diversi, che cominciano a convertirsi e trovano Dio nell'ultimo tratto della loro vita. Terzo insegnamento, la paga. Noi dovremmo dire che questo padrone, questo Gesù, è un po' strano, dovremmo dire, perché onestamente, se dovessimo ragionare noi, e forse facciamo questi ragionamenti, ma non è giusto che... D'altra parte lui vuol fare le cose difficili, lui poteva fare le cose facili cominciando a pagare i primi. Abbiamo stabilito come contratto un soldo al giorno, tu fattore pagali e mandali. No, lui comincia dagli ultimi e gli dà un soldo. Figurati, i primi dicono: a noi abbiamo lavorato tutto il giorno, ricevono uguale, ricevono uguale. E da lì nasce la loro contestazione, no? Che umanamente potrebbe sembrare anche giusta, ma non evangelicamente. E questo, amici, l'insegnamento: il Vangelo va controcorrente. Gesù avrebbe, se avesse aperto un tavolo di trattative sindacali, no? Avrebbe potuto dire: ma anche questi c'hanno a casa una famiglia. Ma hanno lavorato di meno. È vero, però sono stati di buona volontà. Non hanno lavorato perché non li hanno assunti. Ma io che gli ho chiesto di andare a lavorare un'ora prima della fine del turno, finiva alle 18 la giornata, io li ho chiamati alle 17, loro non mi hanno detto: no, devo andare ancora in spogliatoio a cambiarmi e poi dopo devo... Per un'ora sono andati. Vedi, caro amico, che è gente di buona volontà, e anche loro hanno uno stomaco, anche loro hanno a casa una moglie e dei bambini da mantenere. Dagli, dagli ciò che è giusto. E capite, amici, perché noi dobbiamo attingere al Vangelo, meditare il Vangelo, imparare gli insegnamenti del Vangelo. Tanto più che Gesù non fa ingiustizie. Mi piace tanto questa frase, no? Egli chiamò quello che reclamava e gli disse: tu hai concordato con me per un denaro, vero? E allora prendi il tuo e vattene. Amici, è forte Gesù. Prendi il tuo e vattene, perché tu non ragioni alla maniera di Dio, tu ragioni alla maniera umana. Io trovo qui un accenno a quella frase dura di Gesù a Pietro: va de retro, Satana, perché tu non pensi alla maniera di Dio ma alla maniera degli uomini. E così concludo, amici. Proviamo a riflettere. Quante frasi noi diciamo, quanti atteggiamenti noi assumiamo nella vita, che sono magari anche di buon senso, ma non sono evangelici. Il Vangelo supera anche il buon senso. La carità si basa sulla giustizia, ma anche la supera.